Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino, dal titolo Giorni di pioggia. Ci hai lasciato, padre tempo, una primavera inaspettata, ed adesso ritrai la mano lasciandoci al freddo, alla pioggia scrosciante e dirompente. Invano attendiamo giorni di sole, ma minacciose nubi coprono tutto. Sembra d'essere ottobre tornati, quando altro non sogniamo se non un raggio di quel tuo sole caldo ad allietare mesti cuori, a risollevare gli spiriti. Forse tra poco ci lamenteremo dell'afa, forse tra poco giungeranno giorni migliori. Ma quando? Quando?